siamo nel martedì autogestito da femministe e lesbiche, ospitato appunto da Onda Rossa, e appunto lascio la parola qui all'altra matta qui di fronte a me per introdurre di cosa parliamo in questo spazio. Sì, buonasera a tutte e tutti. E c'è particolare emozione perché stiamo per inviare appunto in diretta un file che è stato fatto da 5 compagne e amiche che si sono sperimentate nella lettura di testi di Paolo e Giulia, detenute a Re Bibbia, in seguito all'operazione Ardire, testi che le hanno emozionate, che le hanno fatte ridere e scoprire, letti per far sentire la propria presenza concreta e reale nonostante tutto. E appunto questa è la loro presentazione. Sono dei testi che sono stati scritti da dentro e da fuori il carcere. Sappiamo che siamo appunto ascoltate anche da dentro al carcere di Re Bibbia. Sappiamo che le compagne che sono private della libertà ci ascoltano in questo momento. Speriamo che sia una bella sorpresa. E questo file audio è un file che fa sorridere, fa pensare, e è emozionante perché in questo momento appunto c'è un collegamento diretto con il carcere. Speriamo che questi momenti siano sempre di più, perché ci teniamo a far sì che chi sta dentro non si senta sola o solo, e perché sono dei contributi che servono sempre di più ad abbattere quei confini e quelle galere che non vogliamo più avere. D'una galera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame, mai orizzonti limpidi schiude. E allora appunto, prima di mandare questa lunga registrazione di 50 minuti, spendiamo due parole di più per raccontare di Elisa, Giulia e Paola, che sono dentro la sezione, il regime d'alta sorveglianza del carcere di Re Bibbia. Appunto si trovano lì dentro dal 13 giugno 2012, così come altri compagni nel carcere di Alessandria. E in seguito all'operazione Ardire, una delle 5 operazioni repressive che hanno scandito il ritmo, diciamo, soffocante di questa ultima estate, senza voler appiattire ovviamente sulla questione giuridica o dei tribunali, aggiungiamo soltanto che questa inchiesta è stata comandata dalla Procura di Perugia, asservita al ROS dei Carabinieri, e assegna ruoli e responsabilità in un quadro di reati associativi attribuiti su due distinti filoni, uno locale appunto riferito alla città di Perugia e uno internazionale, dove sono andati a colpire dei compagni e delle compagne, appunto si vivono condizioni di repressione in altri stati europei. Si schianti sui frangenti al tele rosso nere. Ovviamente da questi microfoni crediamo sia importante dare sia spazio a contributi e testimonianze di complicità e vicinanza, come quello che fra poco ascolterete, sia di riprendere in mano l'analisi su dentro la rotta al carcere, sui reati associativi, sulla differenziazione carceraria, quindi sui regimi ad alta sorveglianza e sugli strumenti di controllo che lo Stato utilizza per reprimere nel quotidiano. Alcuni di questi contributi che abbiamo ragionato sono già presenti sul sito di Onda Rossa nella voce contro il carcere, e sicuramente li ritroverete quando andremo a pubblicare l'audio di oggi, insieme appunto agli indirizzi per scrivere alle compagne compagne che si trovano nel carcere di Rebibbia. Io appunto, prima di mandarvi l'audio, mi permetto di salutare e abbracciare forte le compagne che ci stanno ascoltando, così come tutti i prigionieri e le prigioniere, e appunto di lottare insieme per un mondo senza gabbie, né gabbie né confini. Sì, mi unisco. Paola, Giulia ed Elisa sono a Rebibbia nella sezione speciale alta sorveglianza. Dal 13 giugno 2012 sono in carcere preventivo a seguito dell'operazione Ardire. Insieme a loro c'era anche Katia, che è stata scarcerata qualche settimana fa. Abbiamo selezionato alcuni testi di Paola scritti prima della carcerazione, mentre altri sono stati scritti durante il periodo di reclusione. Leggeremo anche un testo di Giulia, scritto poche settimane fa. Abbiamo sentito la necessità di far arrivare le nostre voci all'interno delle mura che le rinchiudono, affinché potessero sentire la nostra presenza lì vicino a loro, concreta e passionale. Affinché potessimo ridere, sorridere ed emozionarci nonostante tutto insieme. Insieme non soltanto a loro, ma anche a tutte le detenute e i detenuti che ci stanno ascoltando. Ringraziamo tantissimo questo spazio radiofonico che ci permette di oltrepassare cancelli, mura e sbarre. Alcune considerazioni. Giulia, ma quanto olio ci metti nel soffritto? Ne vogliamo parlare? Opa, ho conosciuto una vecchia di 90 anni che t'ha sorpassato in macchina. Ne vogliamo parlare? Mi raccomando, fatevi i baffi e le sopracciglia. Il monociglio è demodé. E soprattutto, la Madonna di Pompei è un concetto ben preciso. Ed è con grande gioia che vi diciamo che siete i nostri abusivismi edilizi. Libere tutte e tutti! La mamma un vole che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. La mamma un vole che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Ho seminato un campo di carciofi, giovanottino, mi son belle nati, giovanottino, mi son belle nati, carciofi come te. Non me ne è venuti a mamma un vole, che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Ho seminato un campo d'accidenti, se la stagione me li tira avanti, se la stagione me li tira avanti, ce n'è per te e tutti i tuoi parenti. La mamma un vole che io faccia l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. A me mi piace il fischio del vapore, perché il mio amore gli era macchinista, perché il mio amore gli era macchinista, ma aveva buggerata e non me ne ero avvista. La mamma un vole che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. A me mi piacciono i baci e voglio quelli con i innamorati, se li danno li voglio su, la faccia e sui capelli, e poi chiudo gli occhi e dove vanno vanno. La mamma un vole che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. La mamma un vole che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Lasciata la terra, ho visto il cielo, che cominciava sopra la punta delle mie dita e muoveva in ogni direzione, spostando il mondo quando preciso. Sono stata dentro le nuvole per mischiarmi con l'ombra e col sole. Ho sdraiato la pancia su una falce di luna e mi sono fatta aprire. E sono arrossita, gonfia ed enorme. Sono scivolata sottile di un milione di perle. Nel vuoto. Ho preso in simpatia gli sguardi dei marinai, delle contadine, dei vagabondi, la pelle nuda delle puttane stanche, di chi per noia o per curiosità mi arricciava il naso contro e mi strizzava gli occhi. Ho suonato orchestre d'abeti e di castagni, di falesi ed acqua. Ho commesso i deliri attesi dello scirocco, sbranato menti e cuori. e mi sono fermato prima di chi mi aspettava e li ho resi all'arresto. E potente di silenzio e immoto mi sono fatto niente, così che giacesse l'aria e le pendici dei monti riposassero. Unito al tuono, ho percosso e battuto terribilmente e temibile, non ho mai conosciuto colpa e pentimento. Non sono nato, né morto mai. Tornerò, mi tornerai a cercare, mi troverai dove conoscerai che sono, reale ed apparente. Ti sorprenderò se non mi aspetti, che non si ha mai ragione ad attendere il nulla, non se ne ha merito. Sono il tuo fornitore di malinconia, il coraggio viene appresso. Se lo potessi di con le parole mie, quelli che a scuola non si studia, perché nessuno ha capito, voluto capì come si fa. Mi ci vorria poche, non è tante, e ne poche quelle che si parla a casa mia, eppure vastiria. Me ne vasta poche a ditte che tante ote mi sono scordata di te, come mi scordo delle mammie, degli nervi che tensa quando vorrei ria. Certe ote mi sono scordata di te, mi sono scordata che stavo agli, agli da che parte pure se non sapevo quale, ma mi ti sono portato appresso, un fratello, una sorella, e così. E lo sangue sta da un'altra parte che le viene, sta dentro la testa quando chiudi gli occhi e quando ti pigli per ma, e magari te ci ingazzi pure, perché ingazzasse fra, è una cosa sola che sta accontenti. E io non mi sono potuta accontentare mai, e mo sto a ricominciare, e tu, un'altra volta ci stai mentre ricomincio, lo meglio che son barato a fa fino a mo, ricominciare da due, da tre, da quelli che non mi ha lasciato mai. Mo non ci sto più sola, pure se ogni tanto me ne scordo. Sore, fra, non siete tanti quelli che conto sulle dette della ma. Mi innamoro dei voi altri ogni volta che vi vedo, ogni volta che vi penso, e quello che dicete voi, alla fine, non c'è bisogno che lo ripeto io. I miei fornitori di malinconia, il coraggio viene appresso. Un, due, tre, un, due, tre. Se lasciassi cantare, vibrare ciò che è sotto il mio cervello, guarirei di piacere. Scorderei di redimermi dalle mancanze e di rimediare i ritardi. Se smettessi di ostinarmi a rincorrere un essere qualcuno, mi leccherei le voglie dalle dita, stringerei con le labbra la mia bellezza che scompare e la consumerei, bruciando contro il tempo le risa del mio ventre e le sue note strillate di colore. Farei cadere, e che si sbucci le ginocchia, la ragione, le aspettative sane, che il rimorso di vivere monda e pudica sfacciatamente disattende. Ciò che non sai o provi ad ignorare è che sei speciale, perché lascio che tu lo sia. Erano i germi di una società piccolissima e riuscirono ad edificare la strage del mondo. Furono bravi abbastanza, architettarono il senso e si lasciarono dietro di macerie di piombo e pensieri insolubili. Non ebbero tempo di concedersi, ma lo consumarono nel migliore e più sostenibile dei modi possibili. Da quant'è che sto qua? Poco, direi, se qualcuno me lo chiedesse, e semmai si potesse dire poco, il tempo che ti tengono chiusa in un carcere. Quindi, come tutte, ci sto da troppo. Che ci sto a fare? Non è facile tradurre in modo semplice il linguaggio del potere, in modo elementare l'artificiosa verità che legittima la repressione. E se qualcuno me lo chiedesse, per rispondere userei la metafora di questi ragni minuscoli che scappano lesti e agili da sotto una pietra che qui all'aria di Rebibbia ho appena alzato. Se qualcuno mi chiedesse, che ci fai qua? Risponderei, li vedi questi ragni? Non si addomesticano, arrivano ovunque e non si prendono. Se questo di loro ti spaventasse, tu li schiacceresti. E se fossi vincolato a lasciarli vivere, cercheresti di metterli sotto chiave. Li rinchiuderesti. Potrebbe essere più o meno quello che succede a quelli come me. E detto ciò, penserei di sentirmi rispondere: è responsabile la natura, allora? E ribatterei: se fosse possibile chiamare natura la volontà e il desiderio, quelli di un ragno, di creare, sperimentare nuove tele di senso, di essere complice, di voler restare della propria ragione. E vorrei spiegare meglio. Mettiamo, per esempio, tu sia un re e che tu abbia in odio, per tua natura, i ragni. Non ammetteresti mai che il loro veleno si nutre del dissenso e del contrario di ciò che sei, che sono il contrario di te, fastidiosi nemici che ti corrono lungo i fianchi, che dalla tua pancia nascono. Vorresti annientarli, ostinati come sono nelle loro verità. Nella tua logica, la loro lingua è latitante. Ma non puoi annientarli, no! Poiché un re democratico è garante anche dell'esistenza delle sue parti avverse. Libertà, però, di cui stringe le maglie all'occorrenza, giustificata necessità per cause di terrore. Chi conosce i meccanismi del tuo potere e il potere del tuo linguaggio sa che la tua verità è interessata e così la disinnesca. Quindi sarai un re che teme il dissenso e questi ragnetti sarebbero i bambini che alla fine della favola urlano a tutti: il re è nudo, il re è nudo. Rinchiudergli è utile per fiaccare un'idea o trattenere i mille fili in cui si dipana, le sperimentazioni, le unioni, gli incontri. Hai la forza e la legittimità, la potenza, l'autorità per farlo. Tu sei il potere, tue sono le regole che i tuoi favori adatti. Tu hai la forza delle armi, il monopolio della violenza. Tu sei la polizia, l'esercito. Tu hai il linguaggio di pace con cui proclami la guerra. Tu hai la legge, tu hai l'arte dell'alienazione, della bella e comoda miseria. Ma se è mia la responsabilità di tutto, tutti sarebbero innocenti tranne me, mi direbbe l'ipotetico re. Gli innocenti sono coloro che si ignorano responsabili. Non lo fanno apposta, ma hanno sempre gli occhi chiusi. Ma ogni volta che scoppia un colpo di cannone e non si chiedono, non gli importa di fare nulla per fermarlo, neppure se il mirino gli puntasse contro. Ma io non parlo secondo la lingua dorata dei giudici, e rispetto a quella posso solo dire che sono ciò che sono, prossima a ciò che voglio essere, come tante. Vorrei che ogni cosa cambiasse. Vorrei sperimentare nuovi modi di relazionarsi, disfare i canovacci del potere, dei ruoli, dei generi, dell'obbedienza. Disporre della possibilità di sbagliare, della certezza del dubbio, agire, autogestire, senza ricorrere a legittimazioni teoriche, a coerenze liturgiche. E spesso mi ha mosso la rabbia, altre la paura, a volte in avanti, altre all'indietro. E se questa è cercarsela, il silenzio non è immobilità. Nella asimmetria del potere, la voce dei giornali rimbomba tonante contro la logica, l'autonomia di pensiero e la critica. La professionale fretta di dare la notizia non ha la qualità dell'onestà o della verità, tutt'altro. Fa perno certo sull'alienazione del consenso. Così ogni tanto viene flagellato un nuovo mostro, un orco da temere, un terrore fresco fresco di cronaca. E nella storia resta questa o quella operazione contro il mostro dell'anarchia. Nel presente in cui viene passata, dopo appena 2 o 3 giorni, la velina scade e a nessuno gliene importa più niente di temere gli anarchici, né di dubitare di cosa sia questa signorina anarchia, signora libertà. Se il pubblico ha qualcuno da temere, questo è solo il re, che nudo non vuole farsi scoprire. Ed egli sì, ci teme. Teme che sia infestante la voglia di prescindere da lui laddove è reale la paura di non avere più una casa. Terrorista non sono allora le banche? O di perdere un lavoro, il ricatto della vita per la sopravvivenza e il poco, sempre meno che ci resta? Chi decide e parla a nome nostro lo fa perché ci impone di essere minorenni a vita. Ci toglie il pane, dicendo di tenere per la nostra linea, e se lo mangia generosamente disposto a sacrificare la sua. Ma non le vedi le facce grasse e temerarie di chi ci imbavaglia con la scusa di non farci respirare l'aria inquinata? E poi? Se ci mettono in galera è per proteggerci dall'esplosione della nostra rabbia. È il consenso che vogliono, non coscienza critica. Rabbia, di questi tempi è una parolaccia. Fa peccato sentirsela crescere nello stomaco, nella pancia. Ma è disumano reciderla, laddove essa si genera, tra gli spropositi di questa legale ingiustizia, tra gli sfratti di chi non può pagarsi un tetto e lo chiamano un diritto, tra chi muore di lavoro, di polizia o di galera, tra gli schieramenti militari che garantiscono gli interessi dei cantieri, tra chi annega nelle frontiere d'acqua nelle traversate di speranza verso il primo mondo. Bisognerebbe pensare di meno, qua dentro, dove tutto ha un eco di ore e non ti lascia e facilmente ti avvelena il sangue. Una storia in cui mi piacerebbe leggere delle macerie di queste cattedrali del dolore, del rogo degli scranni, dello sciogliersi di tante catene che appesantiscono e frenano il corpo e il pensiero. C'è invece un presente in cui spesso non ci sono desideri. Chiacchieri, chiacchieri, quanto chiacchieri! Dovresti pensare più a te e meno a cambiare tutto. Camperesti meglio chi pensa per sé. Se, se, ma questo se di cui tu parli si allarga a volte e diventa comune denominatore dello star male, uno spioncino da cui tutta la verità delle menzogne si allarga. E allora il re rischia davanti al suo popolo stanco e furioso di perdere la maschera e la voce. E per questo di tanto in tanto lo confonde, crea nuovi nemici contro cui distrarlo, allarmi ed emergenze come episodiche iniezioni di dolore. E spuntano di tanto in tanto atroci nemici della sicurezza. Neri, immigrati, africani, anarchici, barbari che spezzano e scorticano la parola della legge, manifestanti, assassini, seriali, bla bla bla bla. La paura paralizza. Per questo gli è cara e funzionale. Ma a contatto con la fame... Già, la storia del passato ormai ce l'ha insegnato. Il popolo affamato fa la rivoluzione. Viva la pa pa pa pa col popo po po po. Sei un idealista. È più idealista chi pensa di poter risanare un albero marcio alla radice. Su qualcosa c'hai ragione. Un mostro di cemento e dolore come il carcere non può nascere che da una cavità ammalata. Qui si misura la febbre di una società. Qui sopravviviamo e impariamo a farlo, le sgradite, buttate qua a sciuparsi in una discarica di carne, ammassata alla carne. Eppure, preferisco stare dalla parte mia che da quella dei secondini che hanno le chiavi della mia aria. questo? Dove sono finiti i ragni? I ragni? I ragni. Una nebbia di esseri minuscoli e imprevedibili, ridenti, furiosi, belli. Li riconosco ogni volta che una voce stona il coro del silenzio e prova il desiderio della sua migliore risata. Ecco cosa risponderei se qualcuno mi chiedesse cosa ci faccio io qua. Ma sarei insoddisfatta perché non avrei detto tutto e il poco non l'avrei detto bene. Se potessi aggiungere qualcosa risponderei con una citazione lunga, una toppa per tutto quello che ogni volta ci sarebbe da dire o con il gesto di una sola mano da fare. È una toppa che parla di un toro da corrida che prima di entrare nell'arena nel 1884 incornò un torero, un guardia civile, una guardia municipale e un vigilante notturno. Dice Hemingway: sarebbe stato l'animale ideale da mettere in libertà quando la polizia prende ammazzate i manifestanti. Se non fosse stato ucciso, si sarebbe potuto allevare una razza di tori antipoliziotto che avrebbe restituito al popolo il vantaggio perduto nei combattimenti di strada con la scomparsa del selciato di pietra. Un selciato di pietra a portata di mano è molto più pratico di una mazza o di una sciabola. La scomparsa dei ciottoli del selciato è stata più utile a prevenire la caduta dei governi che non le mitragliatrici, le bombe lacrimogene e le pistole automatiche. Perché è nelle zuffe in cui il governo non vuole uccidere i cittadini, ma soltanto prenderli ammazzate, caricarli, che un governo cade. Qualunque governo che usi troppo spesso le mitragliatrici contro i cittadini precipita automaticamente. I governi sono tenuti insieme dalla mazza e lo sfollagente, non con le mitragliatrici o le baionette. E quando c'erano selciati di pietre, la folla non era mai disarmata davanti alle mazze. E anche così molto manca. Ridi, ridi, ti cucirò la bocca, ti cucirò la bocca con il filo spinato e smetterai di ridere. Poi mi hai promesso il paradiso, senza tener conto che non si promette mai ciò che non si ha e soprattutto non lo si fa con Dio. La tenacia del gelo invernale anche passa. Non t'aspettare che l'autunno capisca i fuochi dell'estate. Se li ha mai vissuti, li ha certo scordati. Ed ora tu gli vieni a dire che non deve davvero un'espressione autunnale. Ti regalo l'acquazzone più strepitoso, il più bel temporale, il limpido cielo dei tramonti dopo l'estate. Non ho niente per te. Conoscimi, fosse anche solo per errore, nella piacute piccola delle mie sciocchezze, nei sogni terribili che irritano la notte e squassano il riposo. Conosci le zampette di ragno, il formicolio dei pensieri molesti, lo stridore costante che regge la veglia. Conosci la mia gioia liquida, il profumo selvatico delle mie bassezze da cui risalgo ostinata a portare il fango fino alle stelle. Conosci l'inquietudine, il riso tenero con cui la cullo, la leggerezza dei giorni di sole, l'arsura di carezze sporche e di tenerezze. Conosci la rabbia, il reato d'azione insidiato dal dubbio, la realtà scorretta e violata. Conosci le imprecazioni, il pianto docile dell'impotenza, un corpo scoperchiato dalla paura, dall'incertezza. Conosci il vuoto che sostiene, che stringe, si fa riempire, che urla di dolore o per piacere. Conoscimi fino a che mi lasci significare. È il più grande sacrificio che ti possa offrire. Sedia del rubarbiere. Per caso sono entrata al rigattiere, tra tante cose vecchie e scurticate c'era una sedia scanecchiata di barbiere. La guardai con occhi di commiserazione, mi pare mi volesse di che cosa, lo cuore mio nostalgico parlò. Oggi mi vidi cucire ridotta male, ma ero bella, de cuoio sopraffino, tutta imbuttita, morbida, guanciale. I clienti dello barbiere ci scialava, si slongava comodi per sbarbassi. Chi non era subito servito, ci russava. Che orda, lo barbiere vi astimava se lo rasoio gli aveva per traerso e una guancia lo cliente gli tagliava. Ma quanti discorsi belli mi gustavo, di cronica, di politica, di sport. A chiusura di bottega mi rilassavo. Dopo l'ultima sbarbata, si chiudia. Ma non sempre lo barbiere gli va a casa, la ciara sinesca chiusa a metà armania. Era un momento bello della giornata. Lo barbiere con una donna se l'andindia e s'arriava tutta angipriata e profumata. Passava la ciara sinesca lo barbiere, sa bella donna si mettia sopra di me. Isso era bravo a fare un giocoliere. Per questo sono diventata sgangherata, per quanti panau tenuto sopra me. Però si due, ma tutta smidollata. Non mi manchi, perché ti porto addosso come un tatuaggio. Non mi manchi perché posso parlare con te come se fossi qui. Non mi manchi perché penso a quanto ti amo e nessuno ti pareggia. Non mi manchi perché mentre penso che non ci sei, ho la certezza che ci sarai. Ma mi manchi. Conosco a memoria tutti i pezzi di questa vecchia colonna sonora, preziosa. Opulente e brillante di pensieri odorosi, sesso potente e dolcissime delusioni. Se hai qualche dubbio, controlla il manuale. In appendice ho trovato i tuoi titoli, una e mille volte dopo, solo diversi nell'ordine. Tu tieni le redini e guidi, vieni quando puoi. Ed io non ho tempo che fuori dal tempo, ma nel delirio poetico, onesto, solo in se stesso. Nel caso tremendo e roboante di spietate intenzioni con cui vado a letto, ho sempre un paio di forbici in tasca, perché il morso è sempre già troppo stretto e le briglie troppo dure. Mi amerai da altre facce, dentro ad altre bocche, sempre uguale a te stesso, farò altrettanto, sempre uguale a me stessa. Ricomincia già la prossima replica. Ti lascio la migliore delle mie canzoni. È tardi. Addio. Come sono scuri visti da qui i fondi del caffè. Avevo un cucchiaino di legno, ma l'ho buttato prima di usarlo. Ora giro il caffè col dito, ma all'incontrario e mi brucio. Ma riconosco gli idioti. Facciamo così, io sto qui, no, anzi qui. Sì, meglio qui che c'è la luce di taglio che entra dalla finestra. Che faccio mentre ti aspetto? Cucino? No, meglio di no, mica lo so quello che ti piace. Poi magari faccio subito una gaffa. Tanto le prime volte si va a mangiare fuori. No, non cucino. Guardo la TV. TV, TV. No, no, troppo casalingo, disimpegnato. È brutto, non lo so, arrivare a casa di qualcuno e vederlo davanti alla TV è brutto, è sciatto. Aspetta, aspetta. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi... Ce l'ho! Stiro! Sì! Mi metto a stirare e così quando arriva mi abbraccia. Oh, sì, sì! Ma no, ma che stiro e stiro! Poi magari apro la porta e invece dell'uomo dei miei sogni mi trovo davanti a un guerriero de carta igienica. Stirare fuori discussione. Posso fare la svenevole sul divano mentre leggo un libro. Che libro però? O una rivista? Il giornale? Ma mi faccio trovare già pronta coi tacchi e tutto o sarà eccessivo? Oddio, che difficile. Vabbè, intanto sistemo i fiori. Ecco! Mentre lui arriva io sistemo i fiori. Belli come me e lui insieme. Sì, lui entra da qua, viene verso di me, mi guarda un po' di nascosto quasi, mi studia e pensa... Quanto è bella. Oddio, me ne sono fatte i baffi. Vabbè, si avvicina. Quatto quatto. Mi abbraccia da dietro. Mi cinge le spalle. No, no, anzi, non le spalle, il petto. No, no, no, il petto è spinto. Non è tanto romantico. Facciamo la vita. E mi tira su dalla vita. Come in quel film. Aspetta, com'era che si chiamava? Vabbè, è uguale. Tanto è meglio che non mi tiri su, se non gli viene subito un'ernia al disco, poveraccio. Facciamo una cosa semplice. Ricapitoliamo. Io sto qui con la luce del tramonto che entra di taglio dalla finestra e mi illumina tutta. Lui entra da lì, mi vede e gli prende un colpo. Resta di stucco, anzi di pietra, anzi di sasso. Una statua di sale a bocca aperta. Oddio, una statua di sale con la bocca aperta deve essere una cosa piuttosto brutta. Meglio di no, niente stucco e niente sale. Non divaghiamo. Entra. Mi vede, resta abbagliato e pensa quanto è bella. Si avvicina felino, mi abbraccia delicatamente per la vita, mi annusa, mi bacia, mi respira e mi dice: ti amo, sei bellissima. O invece è meglio il contrario, che mi dica prima sei bellissima e poi ti amo. Se no sembra che sono bellissima perché lui mi ama e invece dovrebbe essere il contrario. Altrimenti poi, tracchete, momento di sedimento, di stanca, lui smette di amarmi e io divento un rospo. No, sì, meglio il contrario. Prima sei bellissima, poi ti amo. Quindi, ta ta ta ta, entra, vede, pensa, arriva, abbraccia. Sei bellissima. Ti amo. Perditi. Perdi il senno, gli impegni e i doveri. Appoggia la tua testa alla sua pancia. Sei già capace di leggere il soffitto. Hai intrecciato fili di niente, di ossi di pesche, se li accinti in vita. Avessi visto bella. È andata via. Perché non tornavi a raccogliere il tè fresco e il profumo di menta? La troverai seduta, a ridere, sarà già tornata quando vorrai tornare. Ti avrà tra i suoi amanti, senza che tu lo sappia mai se scenderai dove non ci sono porte né passato. Lei è lì che non ti aspetta. Tra un viaggio e l'altro la troverai, perfetto il corpo. Ti bacerà la mente con una storia cominciata da sempre, che non temi e t'appartiene. Te toco, es para verte. Te quiero por el placer de hacerlo. Mantendré ojos de niña entre las arrugas. La canas de adorno. No volveré mañana. Aquí te dejo. ¿Dónde te echo de menos? ¿Dónde no te he echado nunca? Ho gonfiato la tua vela e amato con ogni passione la mente tua ed il corpo fino al dolore. Ora che hai raggiunto il tuo destino, lasciami andare. Sognerai di me, di avermi domato, infuriato tra le tele. Sognerai di ritornare a prendermi e non ti lascerò deluso. Avrò riposato allora nel letto di un tramonto, nella finestra di una camera a sud. Tra i tuoi capelli mi porterai con te. E là in alto, quando arriverai, sarò. E tu mi continuerai a volere. Recide l'indolenza ogni vigore e critica e rabbia restano storia negli orizzonti di perimetri passati, dove si è coltivata la passione di insorgenza e di rivoluzione. Dal taglio germina nostalgia coltivata nell'infinita azione che non ritorna materna in vita. Sicché, rinunciata alla vendetta e lavati odio e rabbia dalle mani e perso di unghie e denti il filo, carico le tasche di rassegnazioni a viver con gli occhi chiusi sulla vita secondo la narcosi del perdono, per reinventare amori e desideri, a consolare il vuoto di intenzioni. Ridi, ridi, ti cucirò la bocca, ti cucirò la bocca con il filo spinato e smetterai di ridere. Sono sporche le mani, di fango. Dopo aver giocato resta la terra addosso. Ciò che cresce nel fango si fa roccia, si arrampica nell'aria, dismette le unghie, la pelle viscida, mette le ali. Ho trovato nel fango ciò che mi bastava. Ho impastato la polvere con il mio piacere, ho respirato assetata l'arsura e ho creato io la terra da cui germinano gli eroi e le storie sconvenienti. Ed ho lasciato che gemessero controtempo, contro la mia volontà, gli spolpati avanzi di felicità senza memoria. Ho guardato le mani, ho sperato che fossero specchi per vedermi ugualmente sicura, irrimediabilmente serena, sincera, di fango, del fango che sporca, perché ha promesso di farlo. La buon'anima de nonnu c'hai a raggio. Ragionavo co fratemo che nonnu c'hai a raggio e mo in confidenza, senza che la pietà male, vi dico che chi non si arricchisce e non giù e scale, sa pure che nen affare sta sotto padrò. Padrò, c'ho lo padrò come se fossi un ca, che per la miseria di stipendio mi ci rovino la salute e a essere fortunata ci guadagno la pensione e dubbiute, ma ci io ste caccia be e non mi ci fa pensà. Che la buon'anima de nonno mi cantava, che essere un lavoro cosa buona, li ricchi se lo tenia stritto e non lo dava. Cerpenzo, e saccio mo che non si sbagliava, chi era per essere liberi sta canzona e che se voglio libertà è perché so schiava. Almeno 3 generazioni di pianto sono dovute passare prima che si imparasse a ridere. No, così non va bene, aspetta. Almeno 3 generazioni di pianto sono dovute passare prima che si imparasse a ridere. Appassionatamente gioco di crederci poco e fingo così senza bene senza sforzo e così tanto lineare che quasi di certo ci credo fingo con costanza di crederci. Gioco poco senza sforzo lineare di certo con costanza fingo appassionatamente di crederci e fingo così bene così tanto che quasi ci credo o fingo di crederci. Velocemente, claudicante di precise intenzioni ci corse incontro e ci venne addosso con un tintinnio confuso di piacere. Poi ci terminò sfiniti con le sue impronte addosso. Il sole attraversa le sbarre, filtra dal vetro, attraversa la bottiglia che hai sul tavolo, si allunga in stralci sul tavolo e ti scalda un po' l'orecchio. Ci sono momenti in cui di notte guardi il soffitto, ascolti il silenzio, senti il rumore del vuoto del corridoio, ascolti il sibilo di una porta chiusa. ci sono momenti in cui ti siedi a fumare una sigaretta all'aperto e guardi il cielo e pensi che se credessi in Dio lo ringrazieresti di poter godere di tanta bellezza anche da qui. Ci sono momenti in cui cammini per i corridoi e pensi che non ti usciranno più dai polmoni. Ci sono momenti, tanti momenti, in cui il corpo è fermo e la tua mente ti sta immaginando mentre distruggi tutto quello che ti capita tra le mani. Ci sono momenti in cui pagheresti oro per una bella birra fresca. Ci sono momenti in cui ti arriva, da non sai bene dove, un odore di terra, di foglie, di autunno e ti ricordi. Ci sono momenti in cui il sole del cielo d'autunno ti fa ripensare alle montagne e al fiato dei tuoi cani. Ci sono momenti in cui finalmente tutte le parole vuote scompaiono, tutte le maschere cadono. Ci sono momenti in cui cadono tutte quelle degli altri, senza che loro lo sappiano. Ci sono momenti in cui ti accorgi che questo posto ti ha cambiato, e altri in cui pensi di essere sempre la stessa, e ti scopri e ti riscopri. Ci sono momenti in cui riconosci l'ora della giornata dal rumore che senti nei corridoi e ti accorgi che sta diventando normale. Ci sono momenti in cui di notte ti svegli di soprassalto perché una luce ti spia il sonno. Ci sono momenti in cui vedi una madre piangere perché non può fare la cosa più naturale su questa terra: stare con i suoi figli. Ci sono momenti in cui piangi per il pianto di quella madre, per gli abbracci negati, per i rapporti mutilati, perché pensi che per tanto dolore nessuno pagherà mai. Ci sono momenti in cui pensi che potresti guardare per ore il viso delle tue compagne che sono con te, perché sai che è solo per quegli occhi che non ha mai avuto paura di questo inferno. Ci sono momenti in cui pensi al dolore di chi viene a trovarti, alle loro facce che tutte le volte che se ne vanno sbigottite dicono: la stiamo lasciando qui. Ci sono momenti in cui il sangue si gela al pensiero della libertà perché pensi che non potrai portare fuori con te le tue compagne. Ci sono momenti, tanti momenti, in cui una risata irrompe come un tuono, come una cascata da un dirupo, e si dipana fresca sulla pelle, sul viso, nella testa. Ci sono momenti in cui vedi tornare il sorriso sul volto di una compagna e pensi di non voler altro dalla giornata. Ci sono momenti in cui ti arriva la voce che qualcuno è uscito o evaso e le sbarre si incrinano e il sorriso è beffardo. Ci sono momenti, tanti, costanti, ripetuti, in cui pensi ad un cumulo di macerie, a chiavi spezzate, a divise bruciate e senti la freschezza dei piedi nudi sull'erba e il respiro è profondo. Non stanno facendo nulla. Questo tempo finirà. Le loro chiacchiere le consuma il tempo. I nodi si scioglieranno, i loro. I miei lacci legheranno più forte. Potrà essere peggiore l'iniezione di dolore che non conosce il fuori. Il destino sterile, l'amore che si sciupa. Potrà essere peggiore, ma io sarò più forte. Potrà essere peggiore quando il tempo si sommerà al tempo, il tempo al tempo e ancora mi verrà rubato. Potrà essere peggiore, ma mai abbastanza da negare a questo corpo il giorno in cui vibrerà in alto come un tuono, come un temporale, la propria vittoria, la mia libertà. Messa a dette l'arciprete. dette l'arciprete, per quante volte ha detto orate frate, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ermene che te voglio non lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato con la testa mozzata e pepanico. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Io sono tra Severina e lo sapete, non serve bello mio che c'è rugate, non serve bello mio che c'è rugate, so cordellate quante ne volete. La la la la la la la la la la la. Ciao, siete all'ascolto questo del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Quella che avete sentito fino adesso, che era iniziata alle 18:30, era una trasmissione, diciamo, speciale. Infatti comunque occupava uno dei nostri orari in cui c'è Atti Misfatti. La trasmissione era per non far tacere l'attesa, una trasmissione contro la repressione e i suoi teoremi. E come avete ben ascoltato, c'erano cinque compagne e amiche che si sono sperimentate nella lettura dei testi di Paolo e Giulia, che sono detenute a Rebibbia in seguito all'operazione Ardire. Sono dei testi che le hanno emozionate, le hanno fatte ridere e scoprire, sono letti per far sentire la propria presenza concreta e reale. Nonostante tutto, noi siamo state molto felici e contente di poter appunto ospitare queste letture. Si vede anche, sono un po' emozionata, anche perché so che ci stanno ascoltando, e quindi cogliamo l'occasione per salutare tutte quelle e tutti quelli che sono privati della loro libertà. Sono le 19:30, sta per iniziare il GR serale di Radio Onda Rossa. Un abbraccio fortissimo a tutte le compagne e a prestissimo. Don't you see me pray?